casa regno e guida il trono ciò che giova si comande si comande si comande base al regno e guida al trono base al regno e guida al trono ciò che giova si comande si comande sono freno al vil non meta grande al grande freno al vil non meta grande al base al regno e guida al trono ciò che giova si comande si comande base al regno e guida al trono base al regno e guida al trono ciò che giova si comanda